Questo è l'inno polacco in una versione particolare, sì, perché l'Europa di calcio può diventare occasione per raccontare una, anzi due nazioni in questo caso, ed è il lavoro di reportage che hanno fatto due giornalisti italiani per il quotidiano online e per la testata online europacotidiano.it. Do il benvenuto a Matteo Taccone e a Stefano Grazioli. Ciao Matteo. Buongiorno. Buongiorno a te, ciao Stefano. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Allora Matteo, raccontaci un po' chi siete e cosa avete combinato. Siamo due freelance, ci occupiamo da tempo di Europa centro-orientale e post-sovietica, ci scambiamo delle opinioni online, telefonicamente, periodicamente, e è venuto fuori appunto questo progetto, parlando del più e del meno di dare vita a questo progetto, cioè raccontare l'Ucraina e la Polonia al di là della questione semplicemente calcistica e sportiva che tiene banco in questi giorni, ma andando un po' più in profondità nelle pieghe della società, della politica, e quindi rappresentare in maniera aggiornata questi due paesi che secondo noi nella percezione comune sono rimasti un po' così agli anni 80, anni 90, insomma, i primi anni della transizione. Certo, Matteo, ma appunto l'Europa, i campionati di calcio, i campionati europei sono un'importante vetrina per queste due nazioni, ma si è raccontato abbastanza di queste due nazioni? Secondo me no, nel senso che appunto bisogna un po' regolare la lente, aggiornarci. Di Polonia in questi giorni se ne è parlato tanto, dicendo che è un paese che cresce, che è dinamico, l'unico che è riuscito a superare i marasmi finanziari insieme alla Germania in questi anni. Però insomma, cioè, la Polonia è una realtà da un po', da diverso tempo, cioè loro dopo l'ingresso in Europa nel 2004 hanno patito un po', perché c'è stato un grosso salto, però tempo un anno, due, hanno iniziato a crescere, a usare benissimo i fondi strutturali, e è iniziata una stagione d'oro, per quanto poi in Polonia rimangano dei talloni d'Achille, come ad esempio le infrastrutture, le regioni orientali del paese che sono un po' meno sviluppati, tant'è che le quattro città dove si giocano le partite sono tutte sulla fascia occidentale del paese, eccetto la capitale Varsavia, che comunque è una capitale, però cambiamenti impressionanti, trainati anche dai giovani. Certo. E Matteo, tu sei un esperto appunto di Est Europa, anche se viaggi molto, ma la racconti qui dall'Italia. Tu invece, Stefano, vivi a Kiev, se non erro. Da due anni e mezzo, fino a dicembre dello scorso anno sono stato proprio fisso. Adesso faccio un po' il pendolare per ragioni familiari, perché mia moglie fa la giornalista, è in Germania, quindi pendolo un po' tra la terra tedesca e la terra ucraina, però sono sempre ogni mese a Kiev e anche un po' in giro per l'ex Repubblica Sovietica. Poi con i due anni di esperienza che ho avuto prima, stando proprio fisso, sono un esperto. Sono stato il primo giornalista italiano accreditato in Ucraina. Adesso siamo in due, non contando ovviamente tutti quelli che sono arrivati in questi giorni, in queste ultime settimane, dall'Italia per raccontare l'esperienza degli europei. Quindi una bella scelta è che Ucraina hai raccontato in questi anni. E la prima domanda, la seconda, interessava a qualcuno o comunque ti senti alla periferia? Dunque, interessava a qualcuno, perché ovviamente sono andato lì proprio avendo la possibilità di raccontarla, lavorando per un'agenzia. È chiaro che non si può andare molto in profondità, però si è cercato di dare un flusso un po' più di continuità alle informazioni che arrivano dall'Ucraina. Insomma, l'est diventa sempre più importante per l'Italia, che si muove verso queste regioni. L'Ucraina è sempre stata confusa, tra virgolette, con la Russia, è un paese indipendente da 20 anni, ha una storia giovane, però se si chiede all'italiano medio dove è Kiev, quali sono le città più importanti di questo paese, si trova abbastanza spaesato. Sì, e quindi, essendoci la, la necessità di raccontarla, ci sono state queste esigenze che sono andate le une con le altre, e in questi 2 anni e mezzo ho cercato di raccontare un po' questo nuovo paese, un po' la politica, l'economia, che sono le cose fondamentali, e poi uno sguardo anche alla società, alla gente, alle persone. C'è voglia di Europa lì, da Kiev? A Kiev sì, c'è voglia di Europa, c'è molta più voglia d'Europa nella parte occidentale del paese, a Leopoli, c'è meno voglia di Europa nella parte orientale, nella parte meridionale del paese, quella che per ragioni storiche è più agganciata alla Russia. Dopo il 2004, quando c'è stata la rivoluzione arancione, sì, in realtà non è stata una rivoluzione, perché i meccanismi, i sistemi della politica e dell'economia sono rimasti sempre gli stessi, è stata una nuova elite che è arrivata al potere, però la politica è rimasta la stessa. E dal 2004 si è avvicinata l'Ucraina all'Europa. Il problema è che l'Europa non ha spalancato le porte all'Ucraina, e quindi c'è stato uno stallo che dura ancora oggi con l'Ucraina, che in teoria, almeno stando a quello che dice sempre il presidente Viktor Yanukovych, mantiene la sua prospettiva europea, però l'Europa che mantiene l'Ucraina a distanza e non offre l'apertura di questa porta con la diventare membro proprio ufficiale, certo, dell'Europa, e offre solo accordi che possono essere economici, ma non permetteranno all'Ucraina, prima di probabilmente 10 o 15 o 20 anni, di diventare un membro ufficiale dell'Unione Europea. Uh-huh. Matteo, tra i tanti reportage che si possono leggere sulle site, ricordiamo europacotidiano.it, ce n'è uno che secondo te è meglio degli altri, racconta la Polonia di oggi? Beh, insomma, mi chiedi di promuovere le cose che scrivo io, comunque. Sì, dai, lo faccio. No, secondo me c'è la cosa che calza un po' più a pennello e racconta un po' la biografia recente e meno recente di questo paese, è la storia del nuovo stadio di calcio, che si chiama Stadion Narodowy, che significa stadio nazionale, ed è quello che avete visto tutti in diretta televisiva ieri sera, dove la Polonia ha esordito con la Grecia pareggiando in un testacoda europeo, no? Il paese che va bene e quello che va male, anche questa era una cosa curiosa. Ma il bello di questo stadio, che rappresenta la nuova Polonia, che cresce, che è dinamica, che ha voglia di fare, è che prima c'era un altro stadio, era uno stadio costruito nel 1955, si chiamava Stadio del Decimo Anniversario, perché in quell'anno la Repubblica Popolare Polacca, ovvero quella comunista, festeggiò le 10 candeline, e questo stadio è stato il tempio del calcio e anche delle parate di partito per lungo tempo. Nel 1968 un filosofo dissidente, Richard Siviez, si diede fuoco sulle gradinate di questo stadio, anticipando il gesto di Jan Palach, insomma. E poi nel 1989 questo stadio, che era rimasto inutilizzato per questioni tecniche, quindi quando cade il comunismo, viene convertito a mercato e diventa l'emporio all'aperto più grande d'Europa, finché e rappresenta anche un po' il capitalismo selvaggio alla polacca, cioè tutti commerciavano di tutto. La stessa domanda, c'è un reportage che meglio di altri dà un'immagine dell'Ucraina di oggi? Ma difficile dire, è un lavoro quello che abbiamo fatto con Matteo, che si sviluppa in 10 racconti, uno per ogni paese, quindi alla fine è il bilancio totale che dà proprio l'immagine globale del paese che abbiamo scelto di raccontare. Adesso sono uscite solo, mi pare, 2 o 3 puntate per ogni paese, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane sarà pubblicato il resto, sia sul cartaceo che sul sito internet di Europa, e ci sono delle storie anche dall'Ucraina che sono comunque interessanti. Una delle che arriverà, penso, verso la fine sarà quella delle basi militari che ovviamente non sono più attive, ex sovietiche e russe, sì, che sono diventati dei punti di attrazione turistica, la vecchia base dei missili nucleari a Pyaromansk, o la base di Balaclava in Crimea, dove Stalin ha fatto costruire un bunker atomico già durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi è stato utilizzato nel periodo della Guerra Fredda. Insomma, cose che non... storie che non arrivano sui giornali, sui quotidiani, nemmeno sui siti internet, e così descrivono un paese ancora in bilico tra passato e presente. Le mille contraddizioni dei periodi di transizione. E speriamo che questi europei di calcio non siano comunque un'occasione sprecata. Credo appunto che una grossa opportunità, non solo economica ma soprattutto sociale. Speriamo che ci sia un cambiamento, che sia un cambiamento nella giusta direzione. Ciao Matteo, ciao Stefano, grazie e complimenti per il vostro lavoro. europaquotidiano.it è il sito per leggere già i primi reportage, appunto questa serie di appuntamenti che poi seguiranno nel tempo. Ciao e grazie. Ciao. Ciao, grazie a tutti.